edizione. Cominciamo questa ora insieme con prima edizione, con le notizie di oggi, della giornata che ci attende questo venerdì 7 ottobre. Ancora buona giornata da Anna Migliorati e come sempre la cominciamo con uno sguardo immancabile ai giornali che troverete oggi in edicola. Quotidiani che per lo più aprono, come la maggior parte, a dir la verità, dei quotidiani in tutto il mondo, dedicando l'apertura a Steve Jobs. Grazie Steve, ci hai cambiati. Il mondo piange Jobs, il visionario che ha inventato Apple, è il titolo tra tutti della Repubblica. Il Corriere della Sera, addio Steve, ingegnere dei nostri sogni. Addio Steve Jobs, il genio che ha cambiato il mondo, titola Il Sole 24 Ore, facendo la stessa scelta del Messaggero. L'addio al genio di Jobs ha cambiato il mondo. Questo un po' il tenore della stampa italiana, ma a dir la verità un po' di tutta la stampa internazionale. Scrive Vittorio Zucconi sulla Repubblica: la folle avventura di un genio immortale. Steve Jobs è morto, è diventato immortale come i guerrieri delle grandi praterie che si dissolvono nella polvere della terra, lasciandosi dietro l'immortalità del mito. Anche a questo cavallo pazzo che ha inventato la tribù della mela, il destino ha risparmiato l'umiliazione del tempo. Così Vittorio Zucconi, e poi molti altri approfondimenti su La Repubblica, ma un po' su tutti i quotidiani. Dicevamo, la rivoluzione della mela, ad esempio Federico Rampini: Apple ha cambiato la nostra vita, anche se non lo sapete, anche se non siete uno dei 100 milioni di acquirenti dell'iPhone nel 2011, anche se non avete mai avuto un computer Macintosh o il Mac, la mela ha cambiato tutti noi. Così le parole della Repubblica. Dicevamo, però, ci sono anche altre notizie sui quotidiani italiani. Restiamo sempre allora sulla Repubblica a fianco. Pronto il condono, i moderati del PDL verso lo strappo. Legge Bavaglio: no alla fiducia. Il Premier attacca i PM e retroscena. Secondo la Repubblica, Palazzo Chigi con Missari a Tremonti per Banca Italia, spunta Amato. Il Corriere della Sera, che dicevamo dedica un taglio alto d'apertura alla morte di Steve Jobs, in taglio centrale anche qui la scelta è tutta per la pagina politica. Governo manovre nel PDL, battuta infelice del Premier sul nome del partito, ed è polemica. Ma ci sono anche altre notizie sul Corriere della Sera. L'Occidente e l'Afghanistan, nell'immagine a centropagina, la guerra dei 10 anni. Afghanistan 10 anni dopo, è ancora una guerra giusta, ma anche una guerra che non si può vincere, afferma Ennio Carretto. La scelta di Bomba 6 corre per Confindustria sul Corriere della Sera. I candidati per il dopo Marcegaglia, anche se il dado ormai è tratto, Alberto Bomba 6 si sta muovendo con molta cautela. Non ha ancora deciso la modalità dell'annuncio ufficiale di candidatura alla presidenza della Confindustria, ma è chiaro che la campagna è partita de facto, ed è un primo annuncio, anzi un secondo annuncio, perché già qualche mese fa qualche indiscrezione era arrivata in questo senso. Il Sole 24 Ore, anche qui dicevamo omaggio a Steve Jobs, e poi una seconda apertura in qualche modo che invece guarda i mercati. BCE in campo, volano le borse, l'abbiamo detto anche noi poco fa con GR24, la banca centrale annuncia l'acquisto e prestiti limitati, e viene rinviato il taglio dei tassi. Ma aggiunge anche al Sole 24 Ore a 100 pagina, il decreto sviluppo invece slitta al 20 ottobre. Il Messaggero, anche qui stessa scelta, taglio centrale dedicato alla politica. Bossi, elezioni prima del 2013, strappo nel PDL, Pisano e Scajola chiedono un esecutivo d'emergenza. È una curiosità, ve la segnaliamo dalla prima pagina del Messaggero. A Roma i taxi peggiori, servizio troppo costoso, conducenti aggressivi. Sono a Roma i peggiori taxi d'Europa, e l'impietoso responso che viene dall'indagine Eurotest firmata dalla Federazione Mondiale dell'Automobile. Barcellona la corsa migliore, a Roma la peggiore. con infrazioni in serie, deviazioni costose, limiti di velocità non rispettati, passaggio col rosso, guida aggressiva e addirittura, ascoltate, insulti, riluttanza a effettuare percorsi brevi. Di certo non è una bella immagine quella che ne esce. Abbiamo tralasciato la stampa perché la scelta è diversa, è così, spazio minore dedicato a Jobs, l'ultimo visionario, così titola il quotidiano di Torino, perché qui invece la scelta è di un'apertura decisamente politica. Giustizia, attacco alle procure, Conti torna l'idea del condono, così l'apertura scelta questa mattina dalla stampa, che a centro pagina invece ha un'altra immagine. Barletta, il giorno di lacrime e polemiche ai funerali politici contestati, tra gli indagati, il padre di una delle vittime. E poi stop a Milano, è già stop alle auto per lo smog, la prima volta caldaie spente, non era mai successo in questo periodo, così scrive la stampa. Uno sguardo anche ai siti internazionali per vedere un po' quali sono i temi su cui puntano gli altri. Dicevamo, su grosso modo tutta la stampa internazionale, il cordoglio per la morte di Steve Jobs, un esempio tra tutti, andiamo in Spagna, il sito del Paese, il mondo dice addio all'imprenditore mondiale, la morte del cofondatore di Apple negli Stati Uniti provoca uno shock come la morte di un presidente, scrive il Paese. In Germania il Der Spiegel invece guarda ancora decisamente alla crisi economica, vie d'uscito dalla crisi del debito, un piano B salva euro, così come il Wall Street Journal, banche centrali, battaglia per mettere un freno alla crisi, le banche centrali europee del Regno Unito strapazzate, questa è un po' la traduzione, per iniettare nuova vita in economie in dissolvenza, pungente decisamente il Wall Street Journal. Sulla prima pagina del sito del Wall Street Journal si parla anche di noi, si parla anche dell'Italia. Il primo ministro italiano Berlusconi ha scatenato una tempesta politica sul nome di un nuovo partito politico usando un termine slang per genitali femminili, così diplomaticamente scrive il Wall Street Journal. Parlando alla Camera dei Deputati, Berlusconi ha respinto le voci che aveva in mente di lanciare un secondo partito politico. Analisti e imprenditori hanno cominciato a chiedersi se lo stile del governo di Berlusconi sgargiante, potremmo tradurre il termine del Wall Street Journal, aggravi le preoccupazioni degli investitori sull'Italia. Apriamo anche il sito del New York Times, è solo uno sguardo, dove però in questo momento qui le immagini di apertura sono tutte per i playoff di baseball, grande attrattiva per gli americani, si gioca gara 5 tra gli Yankees e le Tigri, e il Wall Street Journal punta a questo. La Gazzetta dello Sport, torniamo un attimo in Italia per guardare pagina del quotidiano sportivo, che ci ricorda stasera l'Italia, Cassano più Rossi, è partita vera in Serbia, si gioca alle 20:45. E ripartiamo da qui con prima edizione. Si gioca Italia-Serbia, come ci ricorda la Gazzetta dello Sport, basta un pari per restare in seconda fascia al sorteggio, ma è anche una partita che ha un'altra valenza, perché si gioca un anno dopo gli incidenti a Genova per Italia-Serbia, era il 12 ottobre dello scorso anno, partita quella di questa sera che l'UEFA ha già detto monitorerà attentamente come vero e proprio test degli sforzi compiuti dal paese balcanico nella lotta alla violenza negli stadi. E allora io saluto il collega della Repubblica, Paolo Berizzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Collega che ha seguito anche in prima persona le frange violente della tifoseria europea, che conosce questo mondo. E allora Paolo, ti chiedo, cosa è successo in questo anno? Sono fatti davvero passi avanti? Se ne sono tentati più che fatti. C'è da registrare a livello europeo, quindi soprattutto nei paesi dell'est, una forte recrudescenza di tutte le formazioni neonazionalistiche che trovano nelle curve degli stadi un terreno molto fertile. I timori dell'UEFA sono evidentemente fondati, è una violenza molto manifesta, molto palese, come mai si era verificato in occasione di una partita della nazionale di calcio. Volutamente davanti alle telecamere, esibita. Davanti alle telecamere, per lanciare dei messaggi precisi, cioè la tifoseria serba è oggi nel panorama degli estremisti da stadio, degli hooligan europei, sicuramente una delle più temute, delle più violente. Ci sono dei rigurgiti nazionalistici che trovano in Serbia un laboratorio formidabile, le stesse che, lo ricorderemo, anni fa diedero di fatto accesero la miccia di quelle che furono le guerre nei paesi balcanici. E che si sfogano in qualche modo nel mondo del calcio. Che si sfogano nel mondo del calcio, che vengono veicolate da questo teatro, da questo palcoscenico straordinario per questi signori. È passato un anno, sono stati processati, quell'energumeno che ricorderemo tutti si rimase appollaiato su una barriera di protezione per molto tempo, per troppo tempo evidentemente, è stato processato, è stato in carcere in Italia, è tornato in Serbia. I timori di questa vigilia sono evidentemente timori reali. Paolo, a questo punto, un anno dopo, questa sera però si torna a giocare. Che misure sono state approntate per questa sera? Allora si disse che i controlli alla frontiera furono troppo pochi e che i campanelli d'allarme non furono ascoltati. Questa volta? Ma guardi, io spero che le forze dell'ordine, sia quelle serbe sia quelle italiane, facciano tesoro della lezione di quella sera genovese. I controlli un anno fa non solo furono blandi, ma furono addirittura in alcuni casi ridicoli. Lo dico perché lo abbiamo verificato, lo abbiamo provato sul campo, quindi io mi auguro che in occasione del ritorno di questa partita, un anno dopo, sia in Serbia che in Italia ci siano dei filtri più efficaci, che vengano fermati alla partenza anche tifosi italiani malintenzionati. Qual è il timore maggiore per questa sera? Ma il timore maggiore è quello che ci siano non tanto contatti fra le due tifoserie. Vale la pena ricordare che la nazionale italiana è seguita da uno sparuto numero di tifosi che solo negli ultimi anni si sono dati un'organizzazione, no? Prima era un tifo assolutamente estemporaneo, senza sigle, senza striscioni, senza gruppi. Negli ultimi anni sono nati dei gruppi che seguono solo la nazionale di calcio, sono dei gruppi politicamente connotati a destra, ce ne sono molti nel sud Italia e qualcuno anche nel profondo nord-est, ma quando la nazionale italiana gioca all'estero non sono più che pochissime centinaia i tifosi italiani che la seguono. Il rischio maggiore è quello che i tifosi serbi, cioè gli stessi che furono protagonisti un anno fa degli scontri di Genova, possano innescare incidenti e provocare incidenti contro le forze dell'ordine proprio per conquistarsi un nuovo palcoscenico ed essere di nuovo al centro dei riflettori dei media europei. Ecco, perché una delle cose che colpì allora è che questi scontri tra tifoserie ci sono ben noti per incontri tra club, meno tra nazionali. Una caratteristica questa, ad esempio, della nazionale serba, quali altre nazionali in Europa portano con sé questi rischi? Ma guarda, in origine fu la nazionale inglese, cioè tutti chi studia questi fenomeni è solito ricondurre la violenza calcistica legata alla nazionale e non alle squadre di club all'Inghilterra. Oggi, da questo punto di vista, il pericolo maggiore è rappresentato dalle nazionali dell'est europeo, dove anche la scena politica è, nonostante gli apparenti equilibri, è sempre, come dire, caratterizzata da sommovimenti tellurici. Io sono stato recentemente in Montenegro e proprio lì mi parlavano di una nuova riaccendersi del dibattito in Serbia sul desiderio appunto della Serbia di riannettere il Montenegro. Tutti noi ricordiamo che il Montenegro si è reso autonomo con un referendum. Tutte tensioni che, come dicevamo, poi vengono veicolate anche dal mondo del calcio. Assolutamente sì, ed è forse la forma più manifesta, nel senso che il nesso è sicuramente molto stretto. Grazie a Paolo Berizzi. Grazie a voi, buona giornata. Prima edizione. E alle 6:34 per prima edizione è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 7 di ottobre. rapporto dei cittadini di Lampedusa con gli immigrati, direi pessimo a giudicare dalla vera e propria caccia all'uomo ingaggiata nei giorni scorsi. Da Lampedusa sentiamo questa pillola di un reportage che potete ascoltare la prossima settimana, firmato da Elisabetta Ranieri. A questo punto si è rotto proprio un punto dei nostri principi, ci hanno portati a questo gesto estremo, perché per il lampedusano proprio, parlo da lampedusano, mai avrebbe reagito in questa maniera, assolutamente. Adesso magari siamo visti da razzisti, adesso, ma noi siamo stati obbligati, siamo stati portati a reagire in questa maniera. Popolo di sassaioli, ma noi non abbiamo armi, siamo disarmati, perciò siamo stati portati a reagire in questa maniera per disperazione. Insomma, questo equilibrio si è rotto, ma già comunque era una cosa che noi sapevamo. Noi conosciamo il popolo lampedusano, sappiamo chi siamo, e purtroppo le condizioni in cui versava in quel momento il centro erano assolutamente disperate, già c'erano delle rivolte all'interno del centro. Dall'altra parte c'è questo popolo di lampedusani frustrati dalla stagione che è andata un po' così traballante, e quindi un'incertezza economica per il futuro che li ha ridotti proprio così all'esasperazione. Lampedusa ci ha perso comunque tanto. Cosa? Ha perso quello che aveva costruito comunque in 20 anni, da più di 20 anni, e ha perso perché qui sta iniziando a comandare l'odio e il razzismo, diciamo. In un posto piccolo come Lampedusa, un'isola nel centro del Mediterraneo, dove comunque sei isolato, anche se hai tutti i riflettori dei media addosso, sei sempre isolato, e tante cose non riescono a venire fuori come realmente sono. A Lampedusa credo che è stato chiesto già parecchio, vedere che c'è un resto dell'Italia che in un certo senso si vuole lavare le mani sulla questione. E scaricare tutto sull'isola non è corretto, non è dignitoso né da parte del governo né da parte del resto dell'Italia. Italia in controluce termina qui la prima edizione, torniamo oggi, seconda edizione, 13:30, Radio 24. A Daniele Biacchessi. Buona giornata di nuovo anche da Anna Migliorati. E allora con Primo Mattino continuiamo a raccontare l'Italia questa mattina, o perlomeno a raccontare l'Italia ci penserà l'Istat, cui è stato affidato il censimento 2011, vale a dire la raccolta di dati per raccontare con i numeri questa Italia. Allora io saluto il direttore del censimento, Giuseppe Stassi, buongiorno. Buongiorno a voi. Tutti noi, gli ascoltatori, chi ci ascolta da casa, abbiamo ricevuto in questi giorni la busta targata Istat. Qualcuno magari l'avrà già aperta per sbirciare, qualcuno l'avrà lasciata in attesa, però vogliamo cominciare a spiegare che cos'è, a cosa serve, cominciando col dire che il censimento si propone di scattare in qualche modo un'istantanea dell'Italia ad un momento preciso, vale a dire il 9 ottobre, domenica prossima. È corretto? Esatto, sì. Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Quindi l'operazione che coinvolge ciascuno di noi su tutto il territorio nazionale e che permetterà di tracciare quel profilo socio-economico, quel profilo strutturale delle famiglie italiane, ci permetterà di contare le abitazioni e conoscerne le caratteristiche, anche di contare gli edifici, che appunto ormai tutti sanno, il questionario è arrivato nelle case della stragrande maggioranza degli italiani, e a partire dal 9 ottobre può essere compilato. Con la fotografia però al 9 ottobre, non a un giorno a caso. Sì. Con la data di riferimento ben precisa, 9 ottobre 2011. Una volta i censimenti erano delle operazioni bibliche in qualche modo, è tutto un po' più facile? Certo, è tutto un po' più facile perché ci soccorre la metodologia che abbiamo messo in campo per questo censimento, che ha fatto sì che le buste arrivino direttamente a casa degli italiani tramite il recapito postale. Ci soccorre ovviamente la tecnologia, visto che abbiamo un sistema di gestione della rilevazione che ci permette di monitorare passo passo tutte le fasi dell'operazione censuaria, e certamente c'è una maggiore coscienza delle persone nei confronti dell'importanza della statistica, ce ne stiamo rendendo conto anche dalle telefonate al numero verde che abbiamo messo a disposizione. Le persone si informano e la collaborazione è un fatto certo, ragion per cui adesso l'unica cosa che resta da fare è compilare il questionario. Allora, apriamo virtualmente la busta, apriamo sì. Anche noi virtualmente la busta, la apriamo, troviamo un questionario, cosa ci chiede il censimento? Allora, il questionario pone delle domande abbastanza semplici e intuitive, la prima cosa da fare è compilare la lista A, quella delle persone che hanno dimora abituale nell'alloggio, quindi diciamo i componenti quanti della siamo? Famiglia. Sì, nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza. Questa è proprio la lista di partenza, a partire dall'intestatario del questionario, quindi dal capofamiglia, a seguire i componenti della famiglia stessa. Massima privacy, naturalmente. Assolutamente massima privacy, rispetto della privacy e del segreto statistico. Queste sono caratteristiche di tutte le rilevazioni dell'Istat, a maggior ragione del censimento che coinvolge tutti noi. A seguire avremo le informazioni, le notizie sul tipo di alloggio e sulla famiglia, quindi viene chiesto dove abitiamo, alloggio, dove abitiamo, le caratteristiche. Qui abbiamo delle novità rispetto al passato, perché vengono poste anche delle domande su quale tipo di combustibile o energia alimenta l'impianto di riscaldamento, se c'è disponibilità di impianti di energia rinnovabile, e se c'è l'aria condizionata, e alcune domande sulle tecnologie, quindi se la famiglia dispone di almeno una linea telefonica attiva, ma soprattutto se dispone di un telefono cellulare oppure la connessione di internet, nel caso di presenza di connessione la specifica sul tipo di connessione. Terminata questa parte abbiamo i fogli individuali, uno per ciascun componente della famiglia, e quindi gli interessi e le varie così specificità di ciascuno di noi, grafiche, la formazione, la cultura, la condizione professionale, gli studi fatti e quant'altro. Esatto, sì. Stassi, le giro una domanda che mi fanno dalla regia, abbastanza banale, ma mi chiedono: chi non lo compila cosa rischia? Ovviamente nulla, ma di vanificare il lavoro per tutti. Giusto. Di vanificare il lavoro per tutti, ma il censimento, lo ricordo, è un'indagine soggetta all'obbligo di risposta. Quindi nel caso di netto rifiuto o nel caso si forniscano informazioni scientemente false o incomplete, si rischia anche una sanzione amministrativa. Certo, di quanto? Una razio. È una sanzione che può andare dai 200 ai 2000 euro, ripeto, ultima razio, a fronte di un netto rifiuto. Compilatelo assolutamente, entro quando va consegnato? Guardi, la compilazione scatta il 9 ottobre, abbiamo a disposizione l'abbiamo detto canali, domenica internet fino agli uffici postali fino al 20 novembre senza l'intervento di un rilevatore. Continuano tutti i canali anche dopo il 20 novembre. Ci saranno anche i rilevatori le verifiche per sollecitare le mancate risposte, e la conclusione dipende dalla classe di ampiezza demografica del comune. I comuni Perfetto. Fino a 20.000 abitanti e così via, si prosegue comunque nelle grandi città fino al 29 febbraio. Fino al 29 febbraio, mi raccomando, domenica 9 ottobre, il giorno fissato, aprite la busta e compilatela. Grazie Giuseppe Stassi, direttore del censimento. Grazie e buona voi. Giornata. Buongiorno a voi. Lasciamo il censimento, voltiamo pagina, ancora con prima edizione, e saluto invece un'altra ospite, Sofia Sabatino, buongiorno. Non ci ha ancora raggiunto, allora intanto vi spiego di cosa vogliamo parlare. Oggi riparte la protesta degli studenti che la primavera scorsa avevano portato, ricorderete, all'assalto dei monumenti. Saranno due giorni di manifestazione, oggi e domani. Già annunciano gli studenti nuovi flash mob in oltre 70 città, tra queste ci sono Padova, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Prima edizione. Con collegamenti difficoltosi questa mattina. Vediamo se riusciamo a ritrovarla, la nostra Sofia Sabatino della Rete degli Studenti. Questa mattina, dicevamo, avevano annunciato gli studenti dell'Università Italiana i nuovi flash mob. Ricorderete, la primavera scorsa li abbiamo visti sulla Torre di Pisa, sul Colosseo, sul campanile di San Marco a Venezia. 70 città già dalle primissime ore del mattino, già in questi minuti. Chissà cosa staranno combinando, le avevamo in linea con noi fino a pochi istanti fa, non prendono la linea, qualche flash mob forse potrebbe essere già scattato, lo scopriremo. Nel frattempo stiamo cercando ancora di contattarli e nel frattempo Alessandro Milan, aspettiamo un po' cosa staranno, combinano. Staranno bigiando, non lo so. Beh, bigiando l'hanno annunciato, insomma si può dire bigiare anche degli studenti universitari secondo te? No, ma... vabbè, gli studenti universitari no. Mi chiedo dove si staranno arrampicando. Chi lo sa? Chi lo sa? Vabbè. No, mi fanno segno dalla regia che sono ancora irraggiungibili. Si staranno, non si staranno lo so. Preparando si per staranno un esame, preparando. Sì. Vediamo, ma chissà dove, cosa avranno pensato ancora per la giornata di oggi. Nel frattempo diamo uno sguardo ai giornali a questo punto. Diamo uno sguardo ai giornali, ci sono ovviamente tante storie di politica, c'è moltissimo di Steve Jobs e ci sono anche altre notizie. L'abbiamo curiose. Trovata. L'abbiamo Sofia Sabatino, però la domanda è subito d'obbligo. Buongiorno Sofia. Buongiorno. Dove buongiorno siete? Cosa state combinando? Allora, in questo momento una decina di studenti stanno portando delle sveglie a Palazzo Chigi, proprio perché oggi faremo un corteo, faremo cortei studenteschi in più di 90 città d'Italia e abbiamo voluto iniziare questa giornata presto. Beh, prestissimo! Prestissimo, proprio per risvegliare questo paese dal torpore in cui questo governo vuole lasciarlo e appunto fare immediatamente sentire le nostre ragioni. Li farete suonare queste sveglie? A che ora li svegliate? Assolutamente sì, le stanno facendo suonare in questo momento, a breve ci saranno anche video e le foto in giro per internet e poi li faremo suonare soprattutto dalle nostre piazze oggi. Che non riusciamo a sentirle perché ti sei spostata, perché non riuscivamo a prendere la linea con te. Tecnologici come sempre li metterete già subito online? Esatto, sì. Immediatamente online, come d'altronde anche le foto dei cortei che invaderanno tutte le piazze d'Italia, da Bolzano a Palermo, passando per tutte le grandi città e anche i piccoli centri, per rivendicare una scuola, un'università, ma anche un futuro diverso da quello che vogliono farci avere. Noi non accettiamo che questo governo continui a distruggere la scuola, l'università pubblica. Beh, gli stessi proclami della primavera scorsa. Sì, purtroppo i problemi sono uguali perché non è cambiato niente, anzi è peggiorato. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, abbiamo anche perso totalmente credibilità con qualsiasi paese europeo e mondiale a causa del nostro caro ministro dell'istruzione che non fa altro che continuare a fare gaffe. Insomma, ce l'avete ancora con la Gelmini. Oggi e poi domani, 70 città. Sì. Le sveglia Palazzo Chigi già subito e poi altri flash mob, ma non ce li svelate o sì? Faremo diverse azioni durante i cortei in tutta Italia. L'anno scorso, primavera scorsa, avete preso d'assalto i monumenti, adesso dove andrete? Quest'anno insomma non arriveremo ai monumenti nella prima data, però l'idea è quella sicuramente di fare delle azioni simboliche per rimettere al centro i nostri temi e non quelli di un governo che ormai è completamente delirante. Va bene, nel frattempo avete fatto suonare le sveglie a Palazzo Chigi, le finestre si sono aperte, stanno ancora tutti dormendo, Rita? Sofia? Sì, praticamente sì, non c'è, vabbè, non c'è non nessuno, sono bastate. Però ci siamo noi. Ci siete voi con le sveglie davanti a Palazzo Chigi. Grazie Sofia Sabatino, Rete degli Studenti, buona giornata. Studenti già svegli dunque e oggi le manifestazioni. Eccoli cosa stavano combinando, Alessandro Milan. Ah, ecco, stavano mettendo le sveglie. Sai, per uno studente universitario alzarsi a quest'ora è già... Sì, infatti guarda. L'Italia dorme fino alle 8, 9, 10 di tempo. Noi no. Noi no. Vabbè, era ironia, ovviamente. Ti ho interrotto prima, qualche... Ma no, due anticipazioni, quante... No, una, non lo so, quanto tempo ora c'è? Abbiamo un minuto... Vabbè, allora, vabbè, intanto ti faccio quest'urlo, così vediamo. Ti ricordi questo? D'accordo? Grandissimo. Vanna Marchi è tornata, è in carcere a Bollate, ma di giorno esce e va a servire cappuccini e brioche al bar del genero a Milano. E il giornale l'ha intercettata, non parla perché non può parlare, però Vanna Marchi torna a vendere al bar i cappucci, dagli sciogli panza. E vendere comunque il suo mestiere. Sì, certo. E poi racconteremo la storia dell'unico consigliere del regionale del Lazio. Poverino. Che non ha il doppio incarico, uno su 71, che è un po' come quel lo soldato potremmo giapponese. Offrirgliene uno, poverino, non lo so. Solo lui. E quindi non ha la doppia indennità, lo racconta Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Su 71 tutti hanno doppia indennità e soldi, ovviamente, doppi. È il più povero. Insomma, lui sì, è un po' uno sfigato da questo punto di vista, guadagna solo 4.252 euro netti al mese. Facciamo finta di non averlo sentito. Va bene, aspettiamo però da te altre curiosità, naturalmente la rassegna stampa. Io so anche che oggi hai un ospite un po' sì, speciale. Oggi avremo il maestro Ermanno Olmi qui negli studi per parlare del suo ultimo film e per parlare della ricchezza, perché lui ha lanciato questo sasso dicendo: chi è super ricco, troppo ricco, vuol dire che compie dei crimini perché ha tolto ricchezza a qualcun altro. È un tema interessante. Assolutamente sì, gli facciamo spazio sicuramente qui negli studi di Radio 24. Nel frattempo resta Peter Bescapè, resta Laura Faggini in regia, Dan Migliorati un buon venerdì. Ci sentiamo tra poco con GR24.